in primo piano. Le aperture sono sempre legate all'inchiesta che ci porteremo ormai avanti per chissà quanto sulla protezione civile. La Procura di Roma accusa Firenze. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, uno scontro tra procure. Per Repubblica, appalti la ragnatela di Bertolaso. La Stampa e Il Messaggero scelgono invece la linea di Berlusconi. Berlusconi non è Tangentopoli per La Stampa, Il Messaggero, Berlusconi nessun corrotto in lista. Gli sciacalli della sinistra è l'apertura del Giornale, mentre c'è molto Sanremo ancora, le polemiche su Sanremo. L'Unità apre su Sanremo, prova d'orchestra, scandalo Sanremo, una vittoria quasi annunciata. La RAI succube del potere Mediaset, la legge di Amici, che poi è il programma di Maria De Filippi, ha vinto questo ragazzo Scanu che proviene da lì, da Maria De Filippi. Le mille Italie davanti al fisco, invece questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Ne abbiamo sentito già un'anticipazione nel GR, vale a dire la classifica dei redditi dichiarati nel 2008. Andremo a vedere se siete ricchi, poveri, da che parte, dipende da che parte d'Italia ci state ascoltando. Allora, intanto l'inchiesta, beh, quello che si sa, la novità, le varie novità, le novità più importanti riguardano l'inchiesta del G8. Intanto le leggiamo dal Corriere della Sera qualcosa. Balducci a Roma, sente l'arresto vicino e incontra lo zio. Questo è il nuovo giallo. Ormai era abbastanza accertato che le persone arrestate stessero, a meno dalle intercettazioni, organizzando una sorta di fuga proprio all'estero. Qualcuno dice: sentiamoci ormai su Skype, che è il sistema delle telefonate via internet non intercettato. C'è la famosa frase dell'avvocato che dice: sta per piovere dentro casa, sta per piovere tanto. E qualcuno intercettato che dice: vado a Madrid, venite ad Acapulco, sarebbe un paradiso qui. E Balducci, uno degli uomini chiave arrestati, il giorno prima dell'arresto chiama qualcuno e dice: domani mattina dovrei presto vedere lo zio un attimo. L'identità di questo zio per il momento è sconosciuta. Insomma, è abbastanza accertato che gli arresti sono arrivati nel momento in cui si stessero organizzando se non altro o le dimissioni. Qualcuno diceva Balducci stava per dimettersi e mettersi in malattia e forse andare appunto all'estero. C'è appunto questo scontro, secondo il Corriere, tra procure. La Procura di Roma accusa Firenze. Firenze non ha rispettato le regole, questo avrebbe detto, ha detto il procuratore capo di Roma Ferrara. In questo anche dialogo, qualche virgolettato con Flavio Aver sul Corriere della Sera, pagina 5, il procuratore capo di Roma indagavano dal 2008, ma solo l'8 febbraio scorso ho saputo di Toro coinvolto. Achille Toro è il magistrato che è coinvolto, si è dimesso e che per Repubblica, almeno in queste due paginate, pagina 2 e 3 di Giuseppe D'Avanzo, era davvero un uomo chiave anche in quella che è definita ormai da tutti la cricca. Tangenti pulite e fatturate, il business consulenze d'oro nel sistema protezione civile. Sono le due pagine di Giuseppe D'Avanzo che si concentra su quello che secondo lui è il nuovo filone di questa inchiesta che potrebbe esplodere. Vale a dire che cosa? Proprio quello delle consulenze. Si tratta di questo, scrive D'Avanzo. La protezione civile ha centinaia di consulenti, ce n'è di tutti i tipi. Ebbene, i consulenti possono tirar su centinaia di migliaia di euro o anche 30.000 euro in un solo giorno, senza alcuna fatica o competenza. Tuttavia, se si guarda con attenzione ai nomi dei consulenti, alle loro famiglie, alle relazioni, ai ruoli pubblici, si intravede una razionalità e un disegno. Nelle liste dei consulenti delle più bizzarre e ben più pagate consulenze ci sono coloro che direttamente possono proteggere il sistema che si è creato negli interstizi operativi della protezione civile. La consulenza, scrive D'Avanzo, non è altro che una tangente pulita e fatturata per tener buono il giudice amministrativo, l'assessore riluttante, il giudice contabile, il pargolo scapestrato del parlamentare, il genero del capo corrente, il procuratore cui si chiede di fare quietista e guida e guardare dall'altra parte. È il modo di creare intorno al sistema un muro di supporters e un anello di complicità. Questa è la dura accusa dunque di Giuseppe D'Avanzo, secondo il quale appunto c'è molto nelle consulenze da scavare per vedere la situazione. Intanto Bertolaso che fa? Bertolaso per anche il Corriere della Sera divide l'Italia, nel senso che è andato a, in provincia di Messina, San Fratello, città dove c'è stata questa frana, e ha raccolto i vari resta al tuo posto, applausi, applausi Bertolaso nel paese della frana, mentre c'è stata la protesta all'Aquila, la protesta delle mille chiavi, via le macerie dall'Aquila, un corteo nella zona rossa per chiedere la riapertura della città. E tra l'altro questa contestazione, lo si legge un po' su tutti i giornali, è un po' più analizzata sul Rai, capirete perché dico Rai, è un lapsus, sul Corriere della Sera, è una contestazione nei confronti del direttore del TG1, ecco, all'inviata della Rai, Maria Luisa Busi, contestata la Busi. TG1 da Scodinzolini. Scodinzolini è il modo in cui i detrattori di Minzolini, il direttore del TG1, lo definiscono. Solo che Maria Luisa Busi, bene, il titolo viene messo così, la risposta di Maria Luisa Busi, l'inviata del TG1, sapete qual è? Vi capisco. Tanto che Maria Luisa Busi avrebbe affidato alle agenzie questa risposta alle contestazioni al grido di Scodinzolini, Scodinzolini, che la troupe del TG1 ha subito all'Aquila. Capisco la situazione, capisco gli aquilani. Quello che posso dire è che io sono qui per fare il mio lavoro onestamente. Non posso rispondere dell'informazione a livello generale del TG1. Tanto che il direttore del TG1, Minzolini, si è subito adombrato, ha fatto a stretto giro di agenzia un'altra comunicazione a dire abbiamo assicurato l'informazione continua, approfondita, sono attacchi presuntuosi riferito alla Busi, ci sono stati colleghi che hanno lavorato all'Aquila per settimane di giorno e di notte mentre lei ci è rimasta appena 2 giorni, insomma anche dunque una polemica tutta interna al TG1. La situazione politica, come detto, ben fotografata dai titoli di apertura della Stampa e del Messaggero, Berlusconi non è Tangentopoli, si parla molto, insomma è un momento difficile sicuramente per la politica, tanto che Berlusconi ha ribadito non è Tangentopoli, questa è la posizione del Premier, ha ribadito non ci saranno corrotti nelle liste per le regionali. Io vi segnalo 2 articoli secondo me che fotografano bene la situazione attuale di situazione difficile, anzi sono 3. Il primo è un'intervista a Ignazio La Russa alla Stampa. Adesso il branco stia zitto, questo è il titolo. Dice La Russa, nel momento in cui Verdini è stato raggiunto da un procedimento penale, Berlusconi non ha visto attorno la solidarietà che si aspettava, solidarietà che io invece gli ho mostrato. Ha visto anzi qualcuno che cominciava a mordere, a digrignare i denti come avviene in certi branchi. Del resto Verdini ha un ruolo di vertice ed è chiaro che non può, che può scontentare tutti coloro che sperano in un risultato e non lo ottengono. Dunque, vedete, La Russa già dice attenzione, il branco, d'altronde si vocifera anche di un Berlusconi infuriato, nel weekend si diceva fosse per me io scioglierei il partito, di una situazione interna al partito sicuramente che non piace più molto a Berlusconi, vede agitarsi troppe acque. Il secondo articolo che vi segnalo è infatti in prima pagina del Giornale ed è scritto da Marcello Veneziani e guardate il titolo, ultima chiamata prima del baratro. Pazienza quasi finita, ultima chiamata per l'Italia, i suoi partiti, i suoi palazzi, scrive Veneziani. Stiamo superando la soglia di guardia del pericolo. Se non esplode la rivolta è solo perché la nausea ora prevale sul dissenso, il disgusto frena la ribellione, ma non è detto che duri a lungo. Ha ragione Berlusconi a suonare l'allarme e dirsi preoccupato, avrà letto sondaggi riservati, ma ha capito che siamo sull'orlo di un burrone e questo paese sta raggiungendo uno dei suoi punti più bassi. Non dirò il più basso perché non bisogna mai esagerare, le vie dello squallore sono infinite e abbiamo un'esperienza storica assai ricca e varia del degrado. Insomma, le vicende di sesso e corruzione che si spalmano su tutto il paesaggio politico italiano creano clamorosi indici di ascolto, ma anche paurosi indici di disgusto. Ed ecco allora Veneziani appunto che dice il degrado dei poteri dei partiti ha superato la soglia di guardia, attenzione perché è un'ultima chiamata prima del baratro. Volete il terzo articolo che vi segnalo per fotografare, come detto, la situazione attuale di disagio? Giuliano Ferrara nel tradizionale editoriale sul Foglio del lunedì. Berlusconi deve trovare un antidoto alla degenerazione cortigiana. Scrive Ferrara: da mesi ci sono due Berlusconi, uno che riesce a imporre il suo passo, fa la politica estera, affronta le emergenze, l'altro è sempre sotto assedio mediatico, vita privata, scandali, indagini anche le più fumose, duelli rusticani nel partito, uscite individualista, rivalità, voci sulle nomine che contano, fatterelli vari. Queste situazioni non dipendono dalla cattiveria degli uomini o dal destino cieco e baro. Una corte è una corte. E i cortigiani sono vil razza dannata, lo si sa dal melodramma. E poi, insomma, Ferrara invita Berlusconi a prendere in mano la situazione, dice: non va in Parlamento da quando presentò alle Camere il governo, sono quasi due anni, non fa un discorso impegnativo da mesi e mesi, questo stato di fatto non può non avere conseguenze. La politica non è solo una cosa che si fa, la si pensa e la si comunica in una cornice retorica in grado di persuadere, animare, trascinare, far sognare a occhi aperti. Ecco allora l'invito finale di Ferrara a Berlusconi. Se Berlusconi non si dà una vera spinta per le riforme, se non decide di intaccare qualche stallo, non fa scelte vere che costano qualche forzatura ma alla fine rimettono in moto non solo l'immagine ma il ruolo, la funzione politica del leader, il rischio di una lunga degenerazione cortigiana della sua leadership può diventare il nostro penoso e surreale teatrino quotidiano. Questa è la situazione politica davvero in fermento, mentre c'è molto del nostro sondaggio. Il tema del nostro sondaggio è quello dello smog, il piano di chiusura, la proposta anche provocatoria, anche un po' ideologica, anche per dare un segnale dei sindaci, 80 sindaci, primi fra tutti Chiamparino a Torino e Moratti a Milano, a dire: chiudiamo domenica prossima il traffico al 90, 80, 100, più o meno, insomma tantissime città italiane, tutti a piedi. Sul Corriere della Sera si apprende che Stefania Prestigiacomo, che è assolutamente favorevole a questo, ieri ha fatto un'intervista al riguardo, oggi, eccolo qui, il piano per l'ambiente, smog, ecco il piano per l'ambiente. Attenzione perché è una novità importante, tra l'altro noi avremo alle 8.30 il ministro Matteoli a parlarne, a 90 all'ora sulla Milano-Bologna. Faccio una pausa così un po' drammatica perché so che molti ci ascoltano sulla Milano-Bologna. È allo studio questo, mettere 90 all'ora sulla Milano-Bologna, magari d'inverno, magari su anche altre autostrade, magari anche sul grande raccordo anulare a Roma. Attenzione, so che è 130 al limite, ci state ascoltando dal Gra a Roma, probabilmente arriveranno i 90 chilometri, chi lo sa. Questo perché è una misura per ridurre lo smog, questo secondo il piano dell'ambiente rivelato in parte oggi dal Corriere della Sera. C'è il Ministero dell'Ambiente che parla, un'intervista con Corrado Clini, che è il tecnico del Ministero dell'Ambiente, il direttore generale, che dice: sì, e lo stop occasionale può considerarsi educativo, ma insomma non è che serve, ma non è che i sindaci hanno detto con questo fermiamo tutto il traffico, sarebbe davvero un po' stupida come posizione, questo non l'hanno detto, però è un segnale, voi che ne pensate? Vi segnalo che anche Repubblica ha le tre pagine centrali di R2, insomma la Repubblica, diciamo gli articoli un po' più di approfondimento dedicati a questo sotto la grande nuvola, quella dello smog. Voglio rimanere in tema di traffico e in tema di chi ci sta ascoltando in auto e prendo la prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì. Tassa sulle multe e i ricorsi si dimezzano. Voglio partire così dal fondo della prima pagina, poi vediamo la classifica dei redditi, non vi preoccupate. Sapete che da un po' di tempo da un mesetto circa, un paio di mesi, è stata inserita questa tassa di 38 euro dal 1 gennaio, ecco per la verità, una tassa di 38 euro per chi vuol fare ricorsi al giudice di pace per opporsi alle multe stradali, un po' per arginare questo fenomeno, no? Tipicamente italiano, mi arriva una multa, faccio ricorso. Ora bisogna mettere 38 euro di tassa, che così se funziona, se il ricorso non è accettato, Anzi, credo, ma lo spiega bene il Sole 24 Ore, che questi 38 euro si perdano comunque. E, che cosa succede? Scrive Maurizio Caprino che da quando è stata inserita, quindi da un paio di mesi scarsi, già da un primo monitoraggio del Sole 24 Ore nelle oltre 60 sedi interpellate per quel che riguarda i giudici di pace, sono circa dimezzati i ricorsi. Erano l'anno scorso 17.600, quest'anno nei primi due mesi 9.600, un 45% in meno. Avete visto che forse questa tassa dissuasiva è servita. All'interno ci sono due pagine del Sole 24 Ore, pagina 36 e 37, dedicata a questo tema. Per contestare la multa si paga pedaggio, viene spiegato tutto benissimo su come si paga, quanto si paga, se si perde, se i soldi vengono recuperati oppure no. Ma la notizia di prima pagina che mi interessa di più del Sole 24 Ore del lunedì è questa: le mille Italie davanti al fisco, che ho citato in apertura. È stata fatta un'analisi della classifica dei redditi dichiarati nel 2008. Ebbene, come al solito ci sono non due Italie, ma come scrive il Sole, 8.101 Italie, cioè tante quante sono i comuni italiani. Allora, intanto, se ci state ascoltando da Medea in provincia di Gorizia, sappiate che a Medea è il paesino dove c'è il maggior numero di contribuenti, 54.000 euro di media contribuente dichiarati nei redditi del 2000, riferiti al 2007, dunque nei redditi del 2008, 54.000 euro. Attenzione, mentre per quel che riguarda le province, i capoluoghi di provincia, la classifica la trovate tutta a pagina 3. Milano ha 30.009 euro di media dichiarati, poi Bergamo 27.000, Monza 27.145, Pavia 25.873, insomma Lombardia, tutta Lombardia i primi posti, poi ecco Padova 24.959, poi Bologna, Treviso, Siena. Insomma, c'è la classica divisione nord-sud, le grandi città, Napoli, dov'è Napoli? Oddio, l'ho persa, l'ho trovata, eccola qua, 67esima, 19.211 euro dichiarati. Roma, valla a trovare Roma, chi lo sa. Roma credo che sia un po' in fondo comunque. Vabbè, insomma, ci sono tutte le province, c'è Torino 27esima, 22.277 euro dichiarati. Alla fine ci sono Barletta al terzultimo posto come provincia, 13.019 euro dichiarati, Villa Cidro 11.614 e Andria 11.569, poverini ad Andria la classifica. Voglio andare a segnalare, solo perché è una notizia di cronaca, questi idioti che hanno che si sono guadagnati qualche pagina sui giornali per avere messo un gruppo su Facebook dal titolo, mi fa un po' ribrezzo anche citarlo, tiro a segno sui down, e in 1700 si iscrivono al gruppo di Facebook. Interviene anche il ministro Carfagna: scioccante, stupidamente crudele questo tiro a segno ai bimbi down, un gruppo di disegnati che si accanisce contro i bambini che hanno questa disabilità. Le scritte sul sito: è così difficile da accettare questa malattia perché dovremmo convivere con questi ignobili creature, con questi stupidi esseri buoni a nulla, oltre che idioti anche ignoranti, visto che la sindrome di Down non è una malattia. Ma insomma, già domani questa notizia, voglio sperare, non la troveremo sui giornali. Si sono guadagnati in questo modo, si fa anche così, qualche titolo qua e là. Voglio andare ad alcune segnalazioni che trovate un po' curiose prima di buttarmi sulla questione Sanremo assolutamente. La segnalazione prima di Sanremo è questa: Brown ora è anche un bullo. È incredibile, la trovate ovunque, ma sulla stampa è un'intera paginata. È uscito un libro, sta uscendo un libro in Gran Bretagna, The End of the Party, di Andrew Ronsley, un giornalista dell'Observer, che sostanzialmente dice che Gordon Brown, il premier Gordon Brown, è un manesco, cioè uno che ha delle sfuriate talmente piene di rabbia per cui si teme l'incolumità dei suoi collaboratori, cioè pare che li picchi anche. Addirittura alcuni dei collaboratori avrebbero contattato dei centri antibullismo. Io sinceramente ci voglio credere un po' poco, ma forse è un po' uno iroso, uno che si arrabbia e perde un po' la calma, ma addirittura che prenda a schiaffoni i suoi collaboratori, il primo ministro, mi suona un po' strano. Sì, dai, ci sono 2 minuti per concludere. Sanremo. Sanremo è ovunque. Innanzitutto il televoto. Il televoto è sotto accusa e la polemica più forte viene dal Secolo XIX, ovviamente, il giornale più attento al festival, essendo il giornale prevalentemente ligure. La polemica è questa. Il televoto era il 48444, quello per votare. Ebbene, sapete questo numero di televoto da chi era già utilizzato? Dalla trasmissione di Pupo ed Emanuele Filiberto, I Raccomandati. Raccomandati e Festival hanno lo stesso numero per votare. È chiaro che il Secolo dice, attenzione, forse qualcuno allora aveva modo di votare perché conosceva già questo. Erano favoriti, insomma, gli spettatori di Pupo. Segnalazione per concludere, le interviste. Il principe Emanuele Filiberto, che anzi ad Antonello Caporale su Repubblica dice: non mi chiami principe, mi dà fastidio. Dice: diventerò il nuovo Fiorello. Ebbene sì, mi do lo spettacolo, diventerò Fiorello, mi sono ispirato all'articolo 1 della Costituzione italiana per scrivere questa canzone, i valori sono di destra e di sinistra, la cultura è di sinistra, la religione di destra, la patria di destra, il lavoro di sinistra, e vede, sto perfettamente al centro, un po' di qui, un po' di lì. E il Quotidiano Nazionale ha intervistato anche il padre, Vittorio Emanuele, ovviamente. Vittorio Emanuele, l'intervista: noi siamo sempre sotto accusa, ma in realtà l'Italia ci vuole ancora bene. In questa intervista a noi Savoia ci fermano per strada, a mio figlio chiedono autografi, la canzone l'ho trovata molto bella, non l'avevo letta prima, ma ascoltandola ho capito che lui parla di quando era in esilio. Questo ha detto Vittorio Emanuele con grande sagacia, anche lui davanti alla TV. Vabbè, speriamo di aver archiviato anche quest'anno anche Sanremo. Ci fermiamo.